Aloha! Buongiorno e ben ritrovati. Questo è l'Early Bear Special, la primissima colazione che serviamo tutti i giorni, dalle 6 alle 7, dalle frequenze di Rock FM. Lunedì, la giornata si apre di fronte a noi, lunedì, una meravigliosa opportunità. Parliamoci chiaro, lunedì è una grande rottura di coglioni. Ma noi siamo insieme e ce la faremo, anche perché c'è dell'ottima musica e c'è qualche bella chiacchierina da fare. E ne avevo il sospetto e ora ne ho la certezza. L'Early Bear Special del lunedì è il testimone radiofonico. Vi piace questo? Tra i fortunati bastardi che terminano ora il loro weekend rock and roll e noi stronzetti che iniziamo proprio adesso la nostra dura settimana. Ma siccome siamo rocker e non fighette, lo facciamo a viso scoperto, sicuri che c'è una radio che 24 ore su 24 sarà al nostro fianco. Siamo fatti così. Shiny, happy people. Eccovi, Rapid Eye Movement, The Ram. Shiny Happy People. L'Early Bear Special è un momento molto particolare della giornata di Rock FM. prima di tutto l'orario. Ehi ragazzi, ma dove la trovate della musica così? Alle 6 del mattino. No, no, non sforzatevi, o nel vostro lettore CD o qui a Rock FM. E poi c'è il vecchio Chucky Boy, che ne ha sempre una nuova da raccontare, e lui nel vostro lettore CD non c'è di sicuro. Se vi vanno due chiacchiere, ne ho giusto una molto divertente sugli Stranglers, il gruppo punk inglese della primissima ora. La band, al contrario di tutti gli altri gruppi inglesi, non era particolarmente smaniosa di sfondare in America, anzi, in un paio di occasioni hanno proprio dimostrato di avercela morte con gli Yankees. Sulla copertina di Melody Maker del giugno 1978, il bassista e leader della band, Jean-Jacques Burnel, dichiarava candidamente che, come tutti sanno, gli americani hanno il cervello più piccolo. Vi lascio immaginare la reazione dei fans inglesi dei Ramones. Ancora peggio fecero nel dicembre dello stesso anno, quando la loro etichetta americana, la A&M, propose come primo album da pubblicare appunto in America una compilazione con pezzi dei loro primi due album inglesi. Andarono nell'ufficio del loro manager in Oxford Street e mandarono alla direzione della A&M un telex che diceva: cara A&M, potete anche fottervi, con amore, gli Stranglers. Così l'A&M, invece che promuovere gli Stranglers, concentrò i propri sforzi su altri personaggi emergenti come i Police e Joe Jackson, che diventarono, nel giro di un paio d'anni, decisamente famosi. Beh, Jean-Jacques Burnel andò 3 anni dopo a visitare gli uffici americani della A&M e scoprì che il loro telex era ancora lì, incorniciato e appeso a una parete. Pensate, 3 settimane fa a Torino potevano esserci gli Stranglers e non i Police davanti a decine di migliaia di fans adoranti. Gli Strangler, decisamente punk. Whatever happened to the heroes?

shot for the payback. You run for cover in the temple of love. You run for another, but still the same. For the wind will blow my name across this land. In the temple of love, you hide to death. Someone did you ride the weather and the tears he cried will ring on roses white as lover's eyes. In the temple of love, shine like thunder. In the temple of love, cry. below the wave. When stone is dust and there remains the only haven you can trust. And the devil in a black dress watches over. My guardian angel walks away. Life is short and love is always over. Stronger, cold and long in the temple of love will fall before this black wind calls my name to you no more. In a temple of love we run together. Perfetti, perfetti per il mattino quando le vocioni sono ancora impastate. Sister of Mercy, the temple of love. E con me, come al solito, c'è la dolce Cherie, che proprio in questo momento mi sta servendo la mia canonica tazza di caffè nero bollente. Mercy, Cherie. Was not so sweet, so I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strange. Changes. Don't wanna be a richer man. To be a different man, thou may change me, but I can't trace time. Yeah. I watch the ripples change the size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strange. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Changes. Turn and face the strange. Changes. Where's the shame you've left us up to her next to me? Time may change me, but you can't change. Aloha, buongiorno e ben ritrovati per la seconda parte dell'Early Bird Special, che è la prima colazione che qui si serve a Rock FM, tutti i giorni dalle 6 alle 7 con Chuck Bird, la grande musica di Rock FM già dalle prime ore del mattino, quando le luci dell'alba stanno lentamente ma inesorabilmente trapanando le tenebre della notte. Starship, we built this city. We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. Say you don't know me, I recognize my face. Say you don't care who goes to that kind of place. Knee deep in the hoopla, sinking in your fight. Too many runaways eating up the night. We built this city. Comunicate con il vecchio Chucky Boy, lo potete fare anche voi, digitando sulla vostra tastiera, quella del computer, bird@radiorockfm.com. Un sacco di passerottini e passerottine mi stanno scrivendo già dalle prime ore dell'alba, questo è bellissimo. Carlo mi ha scritto invece la settimana scorsa e un po' criminalmente lo riporto solo oggi, vorrà sicuramente perdonarmi. Mi dice: ciao Chucky, la mia bevanda preferita non è il caffè nero bollente, ma il classico cappuccino. Però vado a berlo in un posto che si chiama Shining. Complimenti, io avrei già paura dal nome. In via Zuretti, questa facciamo un po' di pubblicità gratuita, massima, tanto al mattino si può fare, penso. Un salutone anche ad Ariel, continua il nostro amico Carlo, a cui volevo dire che come al solito i numeri del lotto che non ho giocato non sono usciti. Complimenti. Per tutti quelli che si bevono il primo caffè della giornata con Chuck Bird e poi si pappano pane, burro e rock and roll con Ariele e Freak Anthony, eccovi un eccellente Frank Zappa. FM. Walk away if you want to. can run, but you can never hide from the shadow that's creeping up beside you. There's a magic running through your soul, but you Leper, che vi posso dire? Queste cose le ascoltate solo qui, all'Early Bird Special. Oh, ci stiamo clamorosamente avvicinando alla fine di questa puntata di lunedì, ma vorrei ancora raccontarvi qualcosa, sempre che vi vada. Qualcosa sui Beatles. Una cosa particolarmente adatta alla mattina presto, perché durante le riprese del film A Hard Day's Night, la band inglese fu costretta per la prima volta a levatacce infami. C'è una scena nel film dove si vede Ringo Starr, il batterista dei Beatles, camminare solitario sulla riva di un fiume. Beh, in realtà quella scena doveva essere completamente diversa. Ci voleva Ringo, ma con un bambino. Provarono un sacco di volte la scena, con un bambino che diceva le sue battute, Ringo che doveva rispondere con frasi tipo «È un'altra cosa, bambino». Beh, il bambino era perfetto. Ringo non riusciva a tenersi a mente le battute, tanto che qualcuno provò a gridargliele da fuori l'inquadratura. Tutto inutile. La ragione di tanta inefficienza era che Ringo non si era svegliato presto. non era proprio andato a dormire e tornava direttamente da un club dove si era ubriacato in maniera solenne. Era un miracolo se stava in piedi, altro che recitare con un bambino. Dure le mattine per chi ha lavorato sodo la sera. Hard Day's Night. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard Hard Day's Night. E anche questa dura, durissima mattina di lunedì per il vecchio Chucky Bird è terminata. Non mi rimane null'altro da fare che ringraziarvi calorosamente dell'ascolto e proporvi i rimanenti programmi da Rock FM che partiranno nell'immantinente con pane, burro e rock and roll con DJ Ariele e Freak Anthony. Da Chuck Bird è tutto. Aloha!